ظلم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا 有没得实力还要去来当过心以为会捞几个眼子就在哪里 اسمعوني جيبوا شباب ومئات البنات نطلع الجنب للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics. La música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitical. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ecco la Megaphonics di oggi che volevo dedicare alle voci di donne che di lesbiche che hanno deciso di rifiutare la maternità. Non si farà un discorso articolato su tutte le ragioni, su tutte le diverse diciamo analisi che si sono fatte intorno alla maternità. Si darà la parola a diversi discorsi, diversi testi che comunque mettono in mezzo una critica alla maternità obbligatoria e particolarmente vista come una cosa naturale per le donne, dalle donne. Per le donne. È un discorso abbastanza minoritario perché siamo davanti a un fenomeno in cui è così naturale che le voci che si alzano per proporre un altro modello di vita seria e anche con felicità di vita per le donne sono abbastanza rari. A tel punto che è anche difficile di trovare musiche e testi che vanno in questa direzione a livello musicale. Volevo iniziare con un testo del 78 che non è direttamente come al centro, che non mette direttamente al centro la maternità, ma diciamo una cosa che comunque torna spesso quando si parla di maternità e quale è il ruolo della maternità in questa società e quali sono i ruoli delle donne in questa società. Questo gruppo di 72 che si chiamava Les Green Rouges, Dyke Rosse, Rosse Dyke, Rossi Dyke, Rosse Dyke, scrivono: noi siamo un gruppo di donne ed esprimiamo collettivamente il nostro rifiuto dei ruoli e delle funzioni che vogliono imporre alle donne. Il nostro rifiuto è immenso e irrimediabile. Non abbiamo bisogno di dominazione o di protezione, rifiutiamo il potere. Noi non siamo oggetti sessuali, combattiamo la normalità sociale che dedica le donne ai maschi, ai figli, alle macchine e alle marmitte. Siamo fondamentalmente sovversive, la nostra sovversione si tiene contro i rapporti corpi e capitale, siamo creatrici del nostro godimento fuori da tutte le norme della società patriarcale e capitalista. Sì. Cascheremo tutti giù per terra, terremoti, alluvioni, uragani, arrivano i marziani, la televisione farà una trasmissione, sigla d'inizio, le trombe del giudizio, prima le veline, poi le letterine, Zalla canterà l'anno che verrà, viva la fine. ti riparto, canta, scemo, scemo. Noi non ci saremo tra tanti incompetenti, raccomandati e tanti talenti disoccupati. Super enalotti e politici corrotti, giro, giro, tondo, toccheremo il fondo. Chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha dato, ma il tempo è già passato e non ne resta più. Viva la fine del mondo. Allora, la maternità non è, e la critica alla maternità non è nuova, infatti potremmo anche dire è più o meno scomparsa. Dunque, se vogliamo, guardiamo un po' Beauvoir. Beauvoir nel secondo sesso scriveva: per la donna l'infelicità è di essere biologicamente capace di riprodurre la vita. Penso che una donna deve evitare la trappola dei figli del matrimonio, deve riflettere seriamente alle condizioni in cui trova a educare, perché la maternità in questo momento è una vera schiavitù. Vabbè, lo scrive negli anni 50. Sulla Meet Firestone, un po' dopo, la prima causa dell'asservimento delle donne tiene al fatto che ha come ruolo di portare e educare i bambini. La funzione riproduttiva di una donna è la distensione essenziale su quale ripose tutte le ineguaglianze verso le donne. È un altro punto di vista. Wittig scrive che la femmina diventa donna e madre quando è definita per prima in funzione alla sua capacità di fare figli. Pas d'enfant, pas de fruits à mon arbre, à mon chêne, pas de gland, à mon utérus, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfant pour consoler ma mort, pas de petits mutants, pas de petits médors. Je ne veux pas d'enfant qui sèche au tableau noir, à la guerre de 100 ans au fond d'un réfectoire. Pas d'enfant au curé, au gradé, au bidas, pas d'enfant au piquet, ni première de la classe. Je ne veux pas d'enfant qui pleure ou qui babille, et dont on sera fier quand il fera souffrir les filles. Je ne veux pas d'enfant pour réussir mes rêves, les rêves des parents qui s'étiolent et qui crèvent. Je ne veux pas d'enfant qu'on s'épingle en médaille, qu'on arbore clinquant bien avant la bataille. Je ne veux pas d'enfant pour la paix des ménages, petit témoin tremblant des couples en naufrage. Je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas normal, j'ai déserté les rangs du troupeau génital. C'est comme si j'étais pute, féministe et violente, enfin de cette pègre qui fait peur à tout le monde. Je ne veux pas d'enfant, je le gueule à la face de ce monde de grands assassins et rapaces. Pas d'enfant pour vos guerres, vous les ferez sans lui. Dans le sein de sa mère, elle objecte sa vie. Dans le sein de sa mère, elle objecte sa vie. Allora, per continuare il nostro discorso sulle motivazioni per rifiutare la maternità, volevo fare qualche premessa. Prima, la cosa non è di stigmatizzare le donne che fanno bambini, non è proprio quello. Sappiamo benissimo che nessuna di noi, nessuno neanche, potrebbe avere la pretensione di essere completamente liberi e libere di tutte le catene che il sistema sociale ci impone. Dunque siamo cresciute dentro e ognuna fa come pare. Importante comunque di ricordare che le pratiche individuali e le scelte individuali non sono solo individuali, e qualche sia che vogliamo fare si inscrivono dentro delle strutture sociali che le producono. E dunque non è per caso che vogliamo anche comunque misurare le conseguenze della maternità e della costrizione alla maternità sulla vita delle donne a livello individuale, ma anche a livello collettivo. Un'altra cosa che potrebbe venire in mente è il fatto che infatti attualmente le cose sono cambiate, i fatti sono cambiati, e che tutti i discorsi che faremo di seguito sono un po' scaduti. A quel proposito vi invito, ma anche guardo anche io intorno a me, intorno a voi, nelle nostre famiglie, nella strada, nei mercati, nelle scuole, al lavoro, nei nostri gruppi di amici, amiche, di vedere se infatti tutte le cose che si dicevano sulla maternità e che si dicono anche da qualche parte sono veramente scadute. Per continuare un po', volevo dunque ascoltare un piccolo pezzo di una trasmissione che avevano fatto le nostre compagne di Grenoble, le Déjeunerets, e che pongono infatti un punto abbastanza interessante. Avoir un regard critique sur cette réalité-là et pouvoir, pour nous, c'est vraiment une manière de dire, eh ben, ce qui nous ennuie profondément dans cette société, c'est que donc on est une obligation en tant que femme à être mère. E dunque la cosa che ci dà noia, a noi, la ragione per la quale vogliamo avere un sguardo critico su questo, è che quasi c'è un'obbligazione a diventare madre. Mais et que du coup on soit stigmatisé comme anormal, peut-être immoral, peut-être égoïste ou je sais pas quoi, ou juste au moins un peu bizarre. Voilà. Et donc siamo stigmatizzate come anormale, egoisti o anche forse solo bizzarre, se rifiutiamo, non lo facciamo. Pour enfin dans le moins pire des cas, ou juste un peu bizarre si on fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Se si fa la scelta di non avere figli. Donc c'est toujours le pendant en fait de cette considération de ce que devrait être la normalité, c'est que forcément il y a ce qui est anormal et du. E dunque ci ritroviamo sempre davanti al fatto che c'è il pendant davanti alla normalità, c'è il pendant della normalità. Du coup qui est jugé, stigmatisé et vraiment très durement vécu pour un certain nombre de femmes qui ne font pas le choix d'être mère. E dunque una scelta che è giudicata stigmatizzata e talvolta anche punita per quelle che decidono di non fare figli. Si le nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'il sait bien que ce serait catastrophique. Pour leur prévision démographique, surtout pas trop d'informations sur la contraception. Il vaut mieux culpabiliser celles qui se font avorter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Si Dieu nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, ils veulent contrôler la production pour le contrôle de la production. Combien d'enfants sont vraiment désirés Et combien sont-ils ceux qu'on a fini par accepter? Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Ils savent que s'ils nous donnaient les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, il n'y aurait plus assez de chômage pour leur permettre de nous exploiter. Que l'homme ne soit pas concerné par la maternité, il vaut mieux qu'il reste à l'écart de ces charmants moutards. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Si nous nous donnions les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, nous serions bien plus redoutables face à ces gros bonnets respectables. Surtout sachant nous battre dans le quotidien, il n'y a pas de moment privilégié pour savoir lutter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Il lesbismo, perché infatti i discorsi sono comunque o verso le donne in generale o verso le lesbiche. Siamo adesso con un testo di lesbiche per lesbiche, Linda Strega e Bev Joe. Il lesbismo, come il rifiuto della maternità, esiste in tutte le culture e costituisce una minaccia seria per il patriarcato. Il lesbismo congiunto al rifiuto della maternità è una scelta rivoluzionaria che è stata vissuta un po' dappertutto, sia nell'isolamento sia in piccoli gruppi, e questo malgrado tutti i tipi di minacce, di punizioni, compreso la morte. Una scelta che talvolta si è fatta in piena coscienza di un gesto politico ginocentrico, antimaschio, e altre volte solo con la pura intuizione dell'amore di sé, malgrado il senso di colpa. Una tale determinazione magnifica e rivoluzionaria merita da parte di tutte sostegno e rispetto. Capirne il senso profondo significa capire che l'amore di se stessa, il rispetto definito dalle lesbiche, sia esattamente il definito dalle lesbiche sia esattamente il contrario della femminilità definita dagli uomini. Il carattere rivoluzionario della resistenza all'eterosessualità e alla maternità non è ovvio neanche per le lesbiche stesse, perché abbiamo assimilato i valori maschili. E ci è difficile ammettere e valorizzare azioni che non implica gli uomini o non gli apportano sostegno. Un po' più dopo. Le religioni, i governi, i partiti maschili, tutti dall'estrema destra alla sinistra radicale, spingono le donne a cristallizzare il loro desiderio giusto per un mondo migliore intorno ai loro figli. Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très saint père a dit, faut faire des gosses, même ce repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance. Et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances. Sans cette damnée contraception. Bien sûr les viols font une moyenne. Faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime. Faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, si ça fait mal, qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir. Faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos, pour faire naître ceux qu'ils vont taxer, plus tard d'être des enfants de salauds. Les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces, le temps qu'ils closent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la DAS. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plus. On te pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés. Au ciel, y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que de travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas. T'oublies qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera. On l'appelle sainte, pas faiseuse d'anges. Ma per una femminista o una lesbica, rifiutare la maternità potrebbe essere un fatto di obiezione di coscienza? Si continua con il testo delle lesbiche della rivista Amazon d'hier, Lesbienne d'aujourd'hui, pubblicato nel mi sa 95, qualcosa così, dunque non è così lontano da noi. Con un testo che rileggendo mi sono anche chiesto, cioè mi sono chiesto e mi sono fatto qualche domanda, ma chi potrebbe ancora scrivere una cosa così? E per quale ragione non si potrebbe più scrivere? Perché alla fine è abbastanza basato su dei fatti che si verificano o che sono verificate o che viviamo. E certo, il lei, il voi e il te è ciò canta, ma c'è una lucidità da come comunque, se guardiamo bene, se ascoltiamo i femminicidi, ascoltiamo e guardiamo intorno a noi, non è così così lontano, le situazioni non sono così così cambiate. Comunque dietro questo testo c'è del vissuto. Volete fare figli? Alle lesbiche che provano di essere incinta, la vostra decisione ci affetta tutte e vogliamo dire la nostra. Diventare madre non significa che siete una persona amante e altruista, o che manifestate un coraggio politico, o che subirete adesso un'oppressione più grande di quelle che delle lesbiche che non sono madre, o che i vostri figli saranno la vostra proprietà, o che se si nasce una femmina, che lei diventerà lesbica, e che si nasce un maschio, lui diventerà un maschio eccezionale, non sessiste. Non significa che non siete mettendo al mondo un stupatore di più, che state fabbricando le lesbiche del futuro, che potrete vivere di nuovo la vostra vita attraverso i vostri figli, o che avete il diritto di aspettare o esigere che le altre lesbiche prendano cura dei vostri bambini, o che avete anche il diritto di imporre un altro maschio alle nostre comunità di lesbiche. Infatti, quando si riguardano tutte queste frasi, si può trovare dietro, almeno io lo trovo dietro, una cosa già sentita, una cosa già vista e una cosa già raccontata. Ma diventare madre significa che sarete trattate con più rispetto e di considerazione al mondo. Infatti, quando a un certo momento rientriamo nel ruolo che aspettano di noi, diventiamo, come diceva la compagna di Grönon, diventiamo più normale e dunque più rispettabile. sarete trattate con più di rispetto e di considerazione tra le lesbiche. Chiaro. Tali privilegi saranno ottenuti a spese delle lesbiche che non sono madri. Questi privilegi saranno più importanti se avete un maschio. Vi siete adempianto ai ruoli definiti dagli uomini, quelli della maternità e della femminilità. Siete realizzando quello per quale siete programmata dalla vostra nascita. Perché adesso potete già giocare con una bambola vivente. Che vi condannate a 18 anni almeno di abnegazione, che avrete meno energia per voi stessa e le altre lesbiche. Che la vostra prima implicazione sarà verso i vostri figli e questa relazione con i figlie passeranno sempre prima di tutte le altre relazioni amorose e amicali. E poi loro aggiungono che questa è una parte che comunque abbiamo sentito anche nella la canzone, che comunque su questo pianeta la sovrappopolazione mette che la gente a un certo momento si mette in concorrenza e dice che i vostri bambini forse saranno un giorno in competizione con noi per l'abitazione, il lavoro, le risorse, anche il cibo e l'acqua. Si ridiscute i meccanismi che si vivono nella famiglia e si chiede per forza riprenderete gli stessi giochi distruttivi che avete vissuto dentro la vostra famiglia. Si riviverà sicuramente le giochi di potere che esistono in questa società tra genitori e figli. L'altra e ultima punto e ultimo punto in quale loro insistono è anche la modificazione del corpo in modo irreversibile, e facendo questo dicono che si riduce la vostra esperienza di vita. Infatti sarete più soggetta a emorragia fatale, a setticemi, ai problemi cardiaci, alla paralisi e al cancro. I pericoli della gravidanza sono ben nascosti e la maternità può ancora essere mortale. Comme ça, quand j'ai envie de rire, oui, je ris au éclat. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop serrés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un et quelqu'un m'a aimé comme les enfants qui s'aiment. Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Il bimbo è il distintivo della normalità, la prova della femminilità, almeno come la vogliono i maschi. La maternità ci mantiene al nostro posto, là dove non possiamo minacciare né il patriarcato né la dominazione maschile. And Destiny, you with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this. Do what I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love clothes I'm wearing, I poi in una rivista uscita all'autunno scorso, un testo che rimette anche in centro la maternità e la critica alla maternità, un testo che ci viene anche da Parigi e che si chiama, un testo della rivista Outsister. Il testo è fatto come un compito di scuola. La domanda è: dallo sciopero dei ventri all'indomani della guerra di 14, alla critica della maternità delle femministe degli anni 70, la questione della maternità sembra inevitabile nella vita delle donne e le lesbiche. Che ne pensate? Allora, questo testo è fatto e scritto come un compito di scuola in cui comunque l'aluna fa il giro dell'argomento. Parlare dei figli è un argomento diffuso tra le donne. La questione della maternità sembra comune a tutte le donne. Essere una donna è incredibile di essere madre? Condizione femminile o addestramento? Quali sono i legami che li uniscono? Come li possiamo analizzare? Punto primo, la funzione sociale e la costruzione alla maternità. Secondo la tradizione patriarcale, il lavoro domestico, che ingloba il maternaggio e l'allevamento dei figli, è ancora oggi il ruolo che si aspetta dalle donne. La società valorizza questo ruolo, che le dà un statuto e una funzione sociale. Una madre è utile, una madre si rispetta. Diversi modelli sono proposti. Si trova per esempio il modello della madre coraggio, la madre che si sacrifica, ma le figure della madre mostruosa o delle madri castratrice ne sono anche il pendant. Attenzione alle madri indegne, quelle che escono tardi la sera e che non sanno educare. Loro saranno sanzionate dalla soppressione, per esempio, di aiuti sociali o dalla minaccia del ritiro dei figli. Quelle accusate di infanticide saranno condannate a pene pesanti, pagando così una trasgressione inaccettabile. Le donne diventate madre sono sotto controllo sociale. Da piccole le ragazze imparano il loro ruolo futuro. Trasmesso per esempio tra i giocattoli come bambole, biberon, vettore dell'apprendimento del ruolo sociale delle donne. quando ci sono sorelle e fratelli anche a casa, nella maggior parte dei casi tocca alle ragazze occuparsi dei bambini più giovani, un tempo che loro non potranno sfruttare per aprirsi ad altre attività. Questa pressione spinge le ragazze a conformarsi e ad imparare il loro futuro ruolo con identificazione. Il discorso sociale sulla maternità è prolifico, è insistente, onnipresente e le dà un carattere obbligatorio. Abbiamo il corpo per questo, e la nostra natura, il nostro orologio biologico e la realizzazione della nostra vita. Non è più bello al mondo che dare la vita. Infatti, quell'avventura, e poi è l'unica che, una volta iniziata, ti dura tutta la vita. La questione di maternità ti segue, da piccola fino alla vecchiaia. In ogni momento della tua vita, la questione di avere figli si pone. Quanti ne avrai, per quanto ti ripiangi di non averla, ti ripiangi se ce l'hai, no, mai. Un presagio funesto è pronunciato, invecchierai da sola. Interessante che su questo ultimo punto di vedere quante donne che hanno figli e invecchiano da sole, mentre tante donne senza figli hanno creato un tessuto sociale che le circondano. Molti addirono come argomento che adesso la maternità è una scelta. Grazie ai movimenti femministi le donne dominano meglio la loro fecondità. Ma non è proprio il nostro argomento, perché vogliamo parlare qui della scelta della maternità, non delle condizioni di procreazione. Condizioni che, tra l'altro, sono sempre rimesse in causa quando l'accesso alla contraccezione e all'interruzione di gravidanza non è ancora libero per tutto. È difficile in questo contesto di pressione sociale di parlare di scelta. Sembra più giudizioso di concludere, come dice Claudie, La costrizione alla maternità si interiorizza in desiderio di figli. E fine della prima parte. dunque continuiamo la lettura del compito di classe proposto dalla rivista Outsister con la seconda parte. Essere madre, quale realtà per le donne? Il statuto di madre riduce spesso l'identità delle donne e questo diventa l'unico ruolo sociale. Una donna madre è la madre di. È quasi impossibile scappare al come sta il figlio o la figlia. Se la madre sta bene, allora la figlia, il figlio starà bene. Questa funzione occupa le donne e spinge a numerose costrizioni sociali che sono nel discorso. Una madre si deve occuparsi dei figli e il suo ruolo, il ruolo di madre, spinge ad enormi restrizioni per le donne. Per esempio, sono disponibili in termini di orari, di possibilità, di possibili progetti. Con bimbi le donne sono meno libere dei loro movimenti, hanno meno tempo per loro e meno attività fuori della famiglia. In più il tempo delle madri è spesso occupato da compiti familiari e dall'educazione dei figli. Questo riduce e confina le relazioni sociali in un'unica sfera, la famiglia. Parte 3. E per le lesbiche? La rivendicazione attuale al diritto dell'omogenitorialità riattualizza la questione della maternità per le lesbiche. Essere madre è lo stesso statuto e lo stesso ruolo per le donne e per le lesbiche. Le lesbiche non devono rimanere a casa quando il figlio è malato. Non devono nutrirli, proteggerli, sorvegliarli, educarli. Loro sono meno preoccupate che le donne eteri? No. Possiamo anche questionare la speranza e le motivazioni di questi futuri genitori. Questi figli e figlie saranno il futuro di una società migliore? È possibile educare in un altro modo? Quando si riguarda le ricerche sull'educazione si vede che l'ambiente strafamiliare è fondamentale sullo sviluppo dei bambini e attualmente possiamo supporre che saranno buoni consumatori e gentili soldati. In più, siamo gli esempi palesi del potere limitati che i genitori hanno sul futuro dei loro figli. Quanti dei nostri genitori ci hanno immaginati lesbiche? Ma poi, quando le lesbiche diventano madre, disturbano di meno la società, rientrano nei ranghi, sono tollerabili se comunque ne rispettano le regole. La questione della parentalità in questi ultimi tempi è estremamente presente nelle media e nell'ambito pubblico e politico. Tra le lesbiche sono le lesbiche madre le più visibilizzate, ma sono le uniche lesbiche accettabili? E poi si conclude. Il sistema patriarcale è noia. Abbiamo messo in evidenza che la maternità è presentata come una strada auspicabile per tutte e necessaria alla condizione femminile. Ma perché la maternità è utile al di là della riproduzione della specie umana? Possiamo mettere avanti l'idea che la maternità è utile al sistema patriarcale. Per prima cosa, serve a occupare le donne così non si mescolino dalla vita pubblica e politica. Poi, non hanno più molto tempo per fare altre cose e soprattutto per uscire, incontrarsi con le altre, riunirsi, dibattere, organizzare rete di solidarietà con le altre. In breve, fare che cosa vogliono. La costrizione alla maternità sarebbe dunque un pilastro del patriarcato. Per questo, rifiutare la maternità è una strategia di resistenza al sistema patriarcale. Rifiutare il ruolo di madre, il suo statuto e la sua funzione sociale diventa un atto e una scelta di resistenza per le donne e le lesbiche contro l'appropriazione delle donne dagli uomini. In breve, le lesbiche si riproducono in altro modo, parlando tra loro, ed è meglio così. La Luna conclude: ma che mi frega di avere un buon voto? Ringrazio tutte le lesbiche e le donne che hanno fatto questa scelta. Grazie di avermi dato elementi di analisi. Voglio dare forza a tutte quelle che resistono perché non si sentino da sole e prendono la parola. Silenzio sull'esclavage. E concludo questa trasmissione con una canzone sulla servitù, la schiavitù volontaria. Zarmazon. We'll be right back. Eh sì, ringrazio tutte le lesbiche e le donne che hanno fatto questa scelta. Voglio dare forze a tutte quelle che resistono perché se non si sentino da sole e prendono la parola. Su questa conclusione concludiamo la Megaphonics di oggi e vi dico a fra due settimane. Zamana bitega re bitega. 有没得实力还要去来当歌星，以为会捞几个眼子就在哪里做。 我有一个 blue pop avant-femme tapé du poing sur la table اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics. La música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitical. Eine Kellerhassin, wir sind lesbisch, haben Mut, haben schon so lang gewartet. Hilf und von uns, nur die Wut. Lassiga, lassiga, non sono perdita. Ho scelto da me, qual è la mia vita? Me viens, tout unir, pour le même combat. Me viens, tout unir, pour le même combat. Me viens, tout unir, pour le même combat.